all'appartamento dietro questa piazza, ha cercato di dare fastidio. La cosa incredibile è che questa piazza è stata annunciata prima delle scorse elezioni. Sono le 13:44 minuti e 45 secondi, vi ricordo era la seconda edizione in Italia Contro Luce, cercateci tutti i giorni su Facebook, Twitter, pure la nostra mail che è controluce@radio24.it. Continueremo anche domani, sempre a quest'ora, questo viaggio nei nuovi sindaci, tra i nuovi sindaci. Vi ricordo anche lo speciale, un nuovo speciale sulle elezioni amministrative dalle 21 alle 22 questa sera da me condotto. È tutto.